Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In apertura oggi entriamo in un corridoio lunghissimo che va dal nord Europa fino a Malta, praticamente tocca gli estremi del continente. È il corridoio scandinavo-mediterraneo, un'arteria strategica del sistema infrastrutturale europeo, lungo il quale scorrono merci e persone e al quale è stato dedicato un incontro tecnico tra i rappresentanti dei paesi attraversati dal corridoio, di cui l'Italia, potremmo dire, è la spina dorsale. È stato fatto il punto sullo sviluppo tecnologico delle infrastrutture all'interno di un quadro di strategie condivise che possano favorire l'efficienza dei collegamenti stradali e ferroviari e quindi la competitività del sistema logistico nel suo complesso. L'incontro si è svolto a Roma nella sede di ANAS e innanzitutto attraverso i numeri conosciamo le dimensioni del corridoio scandinavo-mediterraneo. Lo facciamo con Francesca Moraci, professore ordinario di urbanistica all'Università di Reggio Calabria e consigliere di amministrazione di ANAS che ha partecipato all'incontro. Un corridoio che comprende 9.300 chilometri di rete ferroviaria e oltre 6.000 chilometri di rete stradale. Ovviamente connette 25 porti, 19 aeroporti, piattaforme multimodale e 19 città metropolitane o aree urbane strategiche. L'incontro ha fatto il punto sulle buone pratiche che sono in atto per quanto riguarda le strade e sulle nuove tecnologie con cui valorizzare lo stesso corridoio. Chiaro che ANAS è particolarmente interessata perché gran parte della nostra rete sta proprio sul corridoio scandinavo-mediterraneo. Quindi il potenziamento dei collegamenti passa necessariamente dallo sviluppo tecnologico, dalle smart road. In questa direzione ANAS ha avviato una serie di progetti pilota a livello mondiale. Una delle questioni centrali è la necessità che i vari paesi attraversati dal corridoio parlino lo stesso linguaggio. Un esempio che può rappresentare il futuro e magari chi ci ascolta può cogliere perché i corridoi sono uno spazio di innovazione, perché oltre alle infrastrutture materiali corrono le infrastrutture immateriali, quindi la banda larga, l'energia. Una, per esempio, delle cose sulle quali stiamo studiando e investendo a livello internazionale, quindi anche come ANAS con Smart Road, immagini cosa sarà in un futuro avere una macchina senza guidatore che parte dal circolo polare artico e arriva nell'estremo sud dell'Italia. E le città, i porti, i corridoi, i nodi che si trovano su questo corridoio avranno dei ruoli strategici all'interno dell'Europa e quindi all'interno dell'Italia. Ecco, anche un modo per riagganciare tutti i paesi in termini di mobilità, di merci e di persone, quindi connettere i territori, anche i territori che potrebbero sembrare più marginali rispetto alle grandi direttrici europee. La competitività di un sistema logistico passa dalla capacità di attrarre i traffici attraverso la qualità e l'efficienza dei servizi offerti. Vale per l'Europa, vale per l'Italia, che sotto questo profilo sta risalendo la china allo scopo di recuperare le posizioni perdute in passato. Lo sviluppo tecnologico quindi è cruciale, in questa direzione si inserisce la piattaforma logistica nazionale, uno strumento strategico per accorciare i tempi, in qualche modo anche le distanze, quindi per agevolare il flusso delle merci tra i poli logistici del paese. A partire quindi dai porti, a marzo il porto di Genova è stato il primo scalo a migrare con il suo sistema operativo nella piattaforma logistica nazionale, a breve toccherà ad altri porti, quando e come? Abbiamo fatto il punto con Rodolfo De Dominicis, presidente e amministratore delegato di Wirnet, la società che per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha realizzato e messo in esercizio la piattaforma logistica nazionale. Noi abbiamo cominciato con Genova, che è il porto più interessante, più difficile, più avanti anche come tecnologia eccetera. Dopodiché stiamo lavorando a Messina, siamo pronti con Taranto, stiamo ragionando con Ravenna e ragioneremo poi con Trieste e diciamo che c'è tutta una pipeline di autorità di sistema che dovranno essere collegati. Io ricordo che c'è una legge, la 27 del 2012, che dice che la piattaforma è estesa ai porti. Noi dobbiamo portare a casa nei prossimi 24 mesi l'obiettivo di realizzare la rete. Senza la rete non ha senso avere la piattaforma logistica nazionale, non è una piattaforma. La piattaforma c'è solamente se c'è la rete dei porti e delle infrastrutture interne, gli interporti, i retroporti e i centri, gli scali delle ferrovie. Quindi non è azzardato ipotizzare il 2019 come l'anno in cui la piattaforma è a pieno regime, nel senso che nella piattaforma convergono un po' tutti i soggetti. Sì, io farei una distinzione fra il pieno regime legato al piano economico finanziario del concessionario, con invece l'obiettivo politico di realizzare finalmente la rete e quindi una parte importante della riforma dei porti, perché la riforma dei porti passa per buona parte, non per tutto, ma per una buona parte passa per il fatto che le tecnologie ci mettono nella condizione di fare un monitoraggio attento di quello che succede, di quelli che devono essere gli investimenti, di quella che dovrà essere la politica futura, fare gli aggiustamenti in feedback, eccetera. Tra i fattori che nel corso degli anni hanno penalizzato il nostro sistema logistico rispetto agli altri paesi europei e non, c'è indubbiamente la zavorra burocratica, una miscellanea di pratiche e adempimenti con il coinvolgimento di soggetti diversi. La svolta inevitabilmente deve passare anche da questo fronte, di cui l'istituzione dei cosiddetti fast corridor, quindi torniamo a parlare dei corridoi, in questo caso nazionali e solo di merci, lungo i quali appunto le merci vengono sdoganate all'arrivo a destinazione, bypassando così i controlli nei porti. Un nuovo fast corridor ferroviario è stato inaugurato da Mercitalia, il ramo cargo di Ferrovie dello Stato, tra il porto della Spezia e l'interporto di Padova. Un'ulteriore spinta quindi verso un sistema di trasporti intermodale, come ha ribadito a Monaco in occasione di Transport Logistics l'amministratore delegato di Ferrovie Renato Mazzoncini. L'impegno che sta partendo anche con l'operazione di ANAS conferma che l'integrazione, voglio dire, tra questi due modi di trasporto è la vera soluzione per i nostri clienti, quindi trasporto integrato, trasporto intermodale. Dalle merci in viaggio sulle rotte internazionali a quelle che arrivano fino alle nostre case, parliamo della logistica dell'ultimo miglio in relazione allo sviluppo irrefrenabile dell'e-commerce. Secondo una proiezione elaborata dall'osservatorio Netcom Politecnico di Milano, nel 2017 in Italia il valore degli acquisti effettuati online toccherà quota 23,1 miliardi di euro, con un incremento del 16% rispetto al 2016. Sempre secondo questo studio, gli acquisti e-commerce di prodotti cresceranno nel 2017 del 25%, quindi ad un tasso più che triplo rispetto a quello dei servizi. Come si traduce nella logistica lo sviluppo di questa modalità d'acquisto che sta rivoluzionando il costume e le abitudini degli italiani? Lo abbiamo chiesto a Riccardo Mangiaracina, responsabile scientifico dell'osservatorio e-commerce B2 Netcom Politecnico di Milano. Questo significa circa 150 milioni di ordini nel 2017 per un totale stimato di 170-180 milioni di consegne. È che queste consegne non sono uniformemente distribuite durante l'anno, ma ovviamente hanno una stagionalità più spostata verso gli ultimi mesi dell'anno e nel periodo natalizio. Tutto questo porta un carico di lavoro certamente significativo, soprattutto per i corrieri, che sono quegli operatori che ovviamente fanno la consegna ultimo miglio a casa del cliente. Già sono attive modalità di consegne alternative al recapito a casa. Sentiamo cosa avviene quindi già e cosa potrebbe avvenire in futuro. La consegna in negozio per quegli operatori tipicamente multicanale che hanno anche dei punti di vendita fisici, e questa modalità è particolarmente apprezzata dal cliente, che ha sotto controllo evidentemente i tempi e ha anche dei benefici qualora si dovesse istantaneamente rendere il prodotto. Immaginiamo un capo d'abbigliamento andato a ritirare sul punto vendita, dove lo posso anche provare e renderlo se questo non va bene. Ci sono poi le consegne in punti di ritiro, che non sono negozi ma sono solamente dei punti di consegna. Molto spesso questi punti di ritiro sono di proprietà di Corriere Espresso, ancora con le soluzioni più innovative come ad esempio i parcel locker, cioè gli armadi che si possono aprire automaticamente e dove posso andare a ritirare quello che ho ordinato online. Siamo già a qualcosa di un pochino avveniristico, e che però mi piace citare sempre, è la consegna nel bagagliaio dell'auto, perché il nostro bagagliaio dell'auto, quello delle auto più moderne ovviamente, è apribile con un codice digitale che può essere dato a un corriere, che lascia quello che abbiamo ordinato nel bagagliaio della nostra auto, che molto spesso è parcheggiata sempre nel solito posto durante il giorno. Faccio un esempio: io prendo il treno, lascio l'auto al parcheggio della stazione per 10 ore durante il giorno, quindi quello può diventare un punto di consegna. In chiusura, un flash sul progetto Giovani Conducenti, finalizzato alla formazione di una nuova generazione di autisti e promosso dall'Albo Nazionale degli Autotrasportatori con il contributo di vari soggetti. Tra questi ci sono ANFIA, l'Associazione Nazionale della Filiera Automobilistica, e Confarca, una delle associazioni delle autoscuole, che all'Istituto Endofap Lazio Don Orione di Roma hanno organizzato una giornata di lezioni e dimostrazioni pratiche con gli studenti. Con questo mi fermo qui, grazie per l'attenzione. Con hashtag Autotrasporti ci risentiamo lunedì alle 13.45, come sempre in coda ad effetto giorno. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.